nebbia mi nasconde l'orizzonte. Sarà che un po' più in là, sono convinto, non c'è niente. Sarà il fumo negli occhi, sarà il male di te. Sarà che non mi va di cercare risposte, che soffiano in un vento che non c'è. Sarà che basta crederci e poi va tutto meglio. Sarà che preoccuparsi troppo è sempre un grosso sbaglio. Sarà che forse sono daltonico, ma devo dire che questo cielo, invece di essere sempre più blu, a me sembra sempre più nero. Sarà che le ragazze con cui esco hanno tutte i mostri sotto il letto. Le ragazze con cui esco hanno sempre un incubo nel cassetto. Questa nebbia ci sto bene. Sarà che questo pessimismo troppo spesso mi conviene. Saranno gli occhiali da sole, sarà l'umidità. Sarà che se canti la via en rose, io ci vedo la buona alba. Sarà che le ragazze con cui esco hanno tutte i mostri sotto il letto. Le ragazze con cui esco hanno sempre un incubo nel cassetto. Le ragazze con cui esco hanno tutti i mostri sotto il letto. Le ragazze con cui esco hanno sempre un incubo nel cassetto. Le ragazze con cui esco hanno tutti i mostri sotto il letto. Le voci nella testa e fanno il nido in mezzo alla tempesta. Sarà che hanno spesso qualcosa che non va. Sarà che non l'ho mai cercata la felicità. Sarà che le ragazze con cui esco hanno tutti i mostri sotto il letto. Le ragazze